Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Margherita Chiti di Teodora Film che lo distribuisce, parliamo del film Dio è donna e si chiama Petrunia, al cinema da giovedì 12 dicembre 2019. Margherita, ben trovata. Ciao, ben trovati a voi. Lo raccontiamo brevemente? Sì, certo, è un film che si ispira a un fatto di cronaca vera che è avvenuto nel 2014 in un piccolo paese della Macedonia, del nord, durante una cerimonia tipica dei paesi ortodossi che si svolge il 19 gennaio di ogni anno viene gettata questa croce nel fiume e gli uomini della comunità locale devono prendere questa croce. Chi prende questa croce è un po' il benedetto dell'anno, insomma l'illuminato. Nel 2014 una donna si buttò nel fiume e prese questa croce, creando un oltraggio alla comunità e un precedente che nessuno era in grado di gestire, perché ovviamente tutto questo si basava su delle consuetudini, su nessuna legge, e quindi divenne un fatto di cronaca che sconvolse, diciamo, la comunità locale, ed è l'evento sul quale la regista Teona Mitevska si è ispirata per scrivere questo film. Come lo avete intercettato? Allora, abbiamo visto a Berlino nel febbraio di quest'anno, dove il film era nella competizione ufficiale, in concorso, dove ha avuto anche una risposta incredibile, se ne parlò tanto durante il festival, poi come sempre capita in questi casi si parla tanto di un film e non ha vinto nulla, però è stato un film, diciamo, molto osannato a Berlino e poi vabbè, recentemente è stato presentato in anteprima italiana a Torino, festival che ha dedicato anche una prospettiva a questa giovane regista macedone che ha al suo attivo già 4-5 titoli, tutti molto interessanti, ed il film tra l'altro è il recentissimo vincitore del premio Lux del Parlamento Europeo. È il suo primo ad arrivare in Italia comunque? Sì, è il suo primo ad arrivare in Italia, non il primo che vediamo noi, nel senso che è una regista che avevamo seguito, però ha sempre fatto film molto piccoli, molto indipendenti, non facili. Diciamo che il fatto che fosse in concorso a Berlino gli ha dato una spinta in più e siamo stati in grado questa volta di fare un tentativo di portarlo in Italia. In Macedonia che risposta ha avuto? Molto buona, molto buona. Ma lei è una regista molto conosciuta e l'attrice, una delle attrici del film, non l'attrice protagonista, ma l'attrice che interpreta la giornalista, è la sorella di Teona, ed è un'attrice molto famosa in patria perché debuttò con il celebre film di Milko Manceschi, Prima della pioggia. Oh, ci sono altri paesi in cui è uscito? Sta per uscire in Spagna, è uscita in Francia subito dopo il festival di Berlino con una risposta, bisogna dire, abbastanza tiepida. Gli altri paesi europei devono venire, noi siamo i primi dopo la Francia. Però, insomma, la vincita del premio Lux ci dice che abbiamo fatto bene ad aspettare. Confermo. Margherita, cosa hai apprezzato in particolare di questo lavoro? A parte essere un film di grande regia, perché questa, oltre ad essere una grande storia, è proprio un grande film, è un film di grande regia, molto sofisticato, con una protagonista femminile straordinaria, che è questa attrice che è il suo primo film, si chiama Zorica Nusceva, ed è una delle più celebri attrici comiche macedoni. È proprio una stand-up comedian, e qui al suo esordio sul grande schermo, dove dà un'interpretazione straordinaria proprio. Che tipo di uscita sarà? Allora, usciamo con 25 copie, principali capozone e principali province. Diciamo che pensavamo di uscire con 10-15 copie, ci fa molto piacere dirlo, abbiamo ricevuto molte richieste in più di quelle che ci aspettavamo e quindi abbiamo allargato un po' l'uscita. Anche perché è un film, per quello che posso aggiungere, molto originale e nuovo per quanto riguarda il pubblico italiano. Beh sì, sicuramente nella tradizione di Teodora è un film che affronta una tematica seria e consistente, quindi comunque che ha dei risvolti sociali e culturali di una certa importanza, però affrontato con un piglio diciamo sarcastico, ironico, quindi un po' più leggero. Sì. E poi è una storia comunque molto particolare, per un paese cattolico come l'Italia è anche molto interessante, come le domande diciamo che si pone Petrunia e con lei tutti gli spettatori sono molto interessanti, tant'è che abbiamo avuto una bellissima risposta dalle sale della comunità cattolica, da Avvenire, insomma il film è stato sposato da Famiglia Cristiana, insomma ci fa piacere perché si è stabilito un dialogo costruttivo su una tematica molto interessante. Ed ha anche un finale in crescita, perché è un gran bel finale. Sì, c'è un finale in crescita, infatti il film, questo lo diciamo per gli spettatori, è un film in cui si entra piano poco a poco, non è un film che parte in quarta come altri, però è uno dei classici film che ha un finale proprio che riempie il cuore e lo spirito, perché comunque è molto intelligente. Dio e donna, si chiama Petrunia, di Teona Miterska, al cinema da giovedì 12 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Margherita Chiti di Teodora Film, che distribuisce questo titolo. Margherita, grazie, un abbraccio, mille. In bocca al lupo e alla prossima. Grazie al lupo, grazie, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Con Vincenzo Cagliazzo, regista del Diario di Carmela, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, lunedì 9 dicembre 2019, proiezione incontro con l'autore. Vincenzo, ben trovato. Ciao, buongiorno. Lo raccontiamo a chi ci ascolta? Un lungometraggio di fiction, di finzione. È la storia che parla di una ragazzina di 15 anni che vive in un quartiere che qui è Piano Napoli, che è un quartiere difficile della periferia di Napoli, tra Pompei e Bosco Reale, quindi zona paesi vesuviani, e quindi è una storia di riscatto, una semplice storia di questa ragazza che cerca di sopravvivere, diciamo, di combattere con la realtà circostante, ed è diversa lei perché le piace studiare e va bene a scuola, e quindi è una caratteristica che la fa differenziare dagli altri ragazzi del quartiere. Come era nato il progetto? Ispirandosi alla realtà, io vivo a Napoli e avevo visto questa ragazza proprio nella realtà, quindi la sua famiglia, come viveva, quello che faceva, ho cercato di ispirarmi a lei per ricreare questa storia, quindi ricostruirla in un certo senso e farne un film, quindi sono ispirato proprio a quello che vedevo nella realtà, a questa ragazzina che vedevo quasi quotidianamente. Ecco, rispetto alla realtà, su cosa hai voluto mettere l'accento? La realtà l'accento se lo mette da solo, nel senso che almeno per come la vedo io, questo tipo di racconto, di film, diciamo la realtà è lei a comandare, insomma, quindi ho cercato soltanto di non esagerare nel romanzare la storia, quindi soltanto di pensare ai personaggi come sono nella realtà, quello che fanno. E quindi ho cercato di rimanere nei limiti di quel che vedevo, di quel che ho conosciuto della realtà, insomma, quindi senza esagerare, romanzare o creare qualcosa di troppo diverso o irreale, quindi ho cercato di mantenere quello che vedevo, che conoscevo, insomma. Puntando comunque sull'elemento riscatto. Sì, l'elemento riscatto in realtà è un elemento che si può trovare e non trovare, cioè nel senso che il film non è che ti dà la soluzione proprio del riscatto, ecco, questa ragazza sicuramente ci prova, poi ci può riuscire e non ci può riuscire, insomma, sicuramente è una storia di riscatto femminile, nel senso che è una storia dal punto di vista di lei, di questa ragazzina, e quindi di come vede il resto del mondo, come vede il mondo in cui vive, e probabilmente poi in un futuro, siccome lei è brava a scuola, le piace studiare, le piace leggere, probabilmente si riscatterà. Questa potrebbe essere la speranza. Certo, che percorso avete pensato per questo film? Avrà una sua uscita in sala? Il percorso è lungo, perché perché l'abbiamo girato 2 anni fa. Poi c'è stato un anno di lavorazione tra il montaggio, il mix e tutto, perché chiaramente essendo un film low budget è stato molto lento il processo di post-produzione. Poi abbiamo fatto dei festival, prendendo anche dei premi, e adesso piano piano in ogni città stiamo cercando di distribuirlo. Quindi saremo a Roma dal 9 al 12 al nuovo cinema Aquila di Pigneto. Poi faremo altre tappe, Torino, Milano. Siamo stati circa, diciamo, una ventina di sale finora. Per saperne di più proprio sul calendario di proiezioni, ci lasci dei riferimenti? C'è la pagina Il Diario di Carmela, che è sempre aggiornata. C'è anche il sito internet, perché per adesso sicuro è soltanto a Roma, al nuovo cinema Aquila, poi dopo si sapranno le altre date. Il Diario di Carmela, a Roma, al nuovo cinema Aquila, proiezione incontro con l'autore lunedì 9 dicembre 2019, poi in programmazione fino al 12. Un saluto e un ringraziamento al regista Vincenzo Cagliazzo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, a risentirci allora. Marco Maria Gazzano per parlare dell'iniziativa dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, insieme a Roma 3, per la rassegna Le Lotte e l'Utopia, 3 film di memoria civile da non dimenticare, Apollon, Una fabbrica occupata di Ugo Gregoretti, 3 ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli di Elio Petri e Trevico Torino, Viaggio nel Vietnam di Ettore Scola. Marco, ben trovato. Buonasera. Tutto questo al Dance Roma 3, giovedì 12 dicembre 2019, una data non casuale. Ci parli di questa iniziativa? Naturalmente, questa è una data importante perché è il 50° anniversario della strage di Piazza Fontana. Abbiamo scelto questa data proprio per concludere la rassegna che quest'anno le 3 università romane e l'archivio del Movimento Operaio hanno dedicato al biennio 69-70, alla parte cinematografica, ai documentari, ai dibattiti che abbiamo costruito intorno a questi momenti, e abbiamo scelto il 12 dicembre non tanto per ricordare la strage o per fare un evento commemorativo, ma per cercare di dare una risposta come abbiamo definito anche civile, di memoria attiva, non soltanto di nostalgia del passato e tantomeno di necrologia del passato. Quello che vedo infatti in questi giorni è che i media, anche il servizio pubblico, parlano della strage di Piazza Fontana in termini o di cronaca nera o di un fatto deplorevole ma lontano nel tempo o di qualche cosa che riguarda il passato, ma insomma non spiegano per esempio la matrice fascista della strage, non spiegano gli antecedenti anche di depistaggio, le attribuzioni già nei mesi precedenti al dicembre 69 di attentati agli anarchici, non raccontano che questo è stato considerato da tutta la letteratura critica e anche dalla magistratura nelle sentenze successive l'inizio della cosiddetta strategia della tensione, cioè di un meccanismo di depistaggio dell'informazione in favore della preparazione di un colpo di Stato militare o di un blocco comunque dell'esperienza progressiva sia del 68 studentesco che del 69 operaio. Ecco, noi volevamo ricordare che quella data ci riporta a un passato complesso, ma non volevamo ricordarla solo come l'inizio dei cosiddetti e molto discussi anni di piombo. Volevamo ricordare l'utopia che stava dietro quegli anni e che la strage ha cercato di bloccare. Come mai la scelta di questi 3 titoli? Appunto per questo, perché uno dei 3 è quello di Petri, l'ipotesi su Pinelli, è un discorso di controinformazione già fatto all'epoca da un grande maestro del cinema che non credeva alla versione ufficiale del suicidio di questo ferroviere anarchico a Milano, che misteriosamente cade da una finestra della questura di Milano quando è sotto interrogatorio, che non c'entrava nulla con la strage, col terrorismo, con gli atti che creati intorno a questo evento, quindi anche lì è un problema di, o è un delitto di Stato o è un delitto, ma certamente non è un suicidio. Su queste ipotesi lavora bene, ma è l'unico film che riguarda il 12 dicembre in quanto tale, la strage di Stato come sarà definita, e l'inizio della fase della tensione. Gli altri due film sono invece il ricordo di quello che stava capitando in quegli anni. Apollon è un magnifico documentario, tra l'altro appartiene alla serie dei cinegiornali liberi, che era una forma di cinegrafia che sostituiva l'informazione, voleva sostituire l'informazione ufficiale della RAI sulla cronaca, fondato da Cesare Zavattini. Apollon è uno dei cinegiornali liberi di Cesare Zavattini, girato in pellicola da Gregoretti, e racconta l'occupazione della tipografia Apollon a Roma da parte degli operai, che si aggrediva perché, essendo una tipografia, era un luogo di produzione mediale, era un luogo in cui si stampavano i giornali, i manifesti, i volantini, la comunicazione, quindi parte degli operai di Roma occupare un luogo della comunicazione e difenderlo dalla chiusura era un atto politico che andava al di là della pura emergenza sindacale. Il governo italiano mandò il suo ministro del lavoro in solidarietà agli operai in quella occasione, questo viene documentato da Gregoretti. È uscito proprio in questi giorni un doppio DVD con le copie restaurate sia di questo film di Gregoretti che dell'altro film di Gregoretti, che è Contratto, quindi Apollon è Contratto, a cura di Silvio Grasselli, che è stato un nostro laureato di Roma 3, laureato magistrale che dirige il Festival del Popolo di Firenze e che ha curato l'edizione critica di questi due lavori, che quindi si trova anche in occasione del Natale in libreria. Il terzo film che facciamo vedere invece è quello di Ettore Scola, Trevico Torino, ed è una storia, quasi una commedia molto sui generis, molto impegnata. È la storia di due ragazzi, un ragazzo e un giovane ventenne che parte dal centro-sud dell'Italia negli anni 60 per andare a lavorare a Torino trova un ambiente ostile sia per il razzismo di certi torinesi, ma trova anche una fabbrica che è la grande fabbrica Fiat, che è una macchina di distruzione della personalità molto evidente, trova l'abbandono delle sue radici contadine, insomma tanti momenti, però trova anche una nuova identità, riesce, è una metafora, è una storia, riesce in questa città a ritrovare la coscienza di classe, il rapporto con i vecchi operai, con il lavoro professionale, trova anche il rapporto d'amore con una giovane torinese di lotta continua, che insomma milita nella sinistra parlamentare. Quindi in qualche modo è una storia di vita che diventa una storia di presa di coscienza, e questa presa di coscienza è quello che noi volevamo proporre con questi tre film di tre grandi autori in occasione del 12 dicembre, non soltanto il ricordo tragico di una strage tragica, ma il pensiero verso ciò per cui la strage è stata fatta, cioè per bloccare l'utopia, il desiderio, la volontà di cambiamento di intere generazioni. Non ci saranno solo le tre proiezioni, ma sarà anche un momento di incontro e dibattito. Naturalmente il pubblico, che speriamo ci raggiunga in via Ostiense 139 alla sede del DAMS, potrà intervenire, faremo credo all'inizio della presentazione delle opere, alla fine naturalmente un dibattito, una risposta alle domande che ci faranno, credo che saranno anche numerose queste domande, perché per quanto se ne dica 50 anni sono molti e la memoria in questi 25 ultimi 30 anni è stata un po' cancellata. Le nuove generazioni hanno davvero molto bisogno e desiderio di capire cos'è accaduto, perché di fatto sono vittime di quel passato senza conoscerlo, e quindi insomma, a noi interessa entrare in relazione attivamente, ecco, non fare una commemorazione di quei fatti e neanche semplicemente ricordarli e basta, ecco. È un po' lo stile di tutta la rassegna che abbiamo realizzato quest'anno sul 69-70, lo scorso anno sul 68 e l'anno ancora precedente sul centenario della rivoluzione d'ottobre. Infatti il titolo della manifestazione è Le forme e il progetto per un cinema politico, dove il cinema politico non è il cinema di propaganda, ma è un cinema che deve, da parte degli autori e per il pubblico, stimola la presa di coscienza civile, forme di attività, usando il nuovo linguaggio del XX secolo che è la cinematografia, sia quella di fiction che quella documentaria, che quella dei video artisti, che quella sui nuovi media. E le forme sono il nuovo linguaggio che con questi media il XX secolo ci ha consegnato e ha consegnato al XXI secolo dove stiamo vivendo. Si potrebbe affermare che è un prolungamento della rassegna Le lotte e l'utopia questo appuntamento del 12? Naturalmente sì, è un prolungamento per quest'anno, è quasi la conclusione, il suggello. L'anno prossimo stiamo immaginando il tema per il 2020 e questa è ancora una sorpresa, ma ci sarà anche un ulteriore prolungamento di questa serie di rassegne cinematografiche di Conte, naturalmente. Per la rassegna Le lotte e l'utopia, un appuntamento con tre film: Apollon, Una fabbrica occupata di Ugo Gregoretti, Tre ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli di Elio Petri e Trevico Torino, Viaggio nel Vietnam di Ettore Scola al Dams Roma 3 giovedì 12 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Marco Maria Gazzano. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie molto. Con Matteo Bennati e Maurizio Scarcella per parlare del loro film 12-12, Piazza Fontana, in programmazione il 12 dicembre 2019 al Nuovo Cinema Palazzo a Roma e il 13 dicembre al Centro Sociale Forte Prenestino in contemporanea al Brancaleone. Ben trovati. Salve, ciao. Chiariamo subito che si tratta di una copia lavoro, giusto? Assolutamente sì, piacere. Intanto io sono Maurizio e qui con me ci sta Matteo, il mio collaboratore. Di cosa stiamo parlando? Allora, è un documentario, diciamo, che parla di Piazza Fontana, vista, diciamo, dagli occhi di quello che è stato il circolo 22 marzo, che praticamente era un circolo anarchico, c'è stata una scissione da un altro gruppo più grande che era il Bakunin. E questo, diciamo, gruppo fu poi accusato di essere esecutore della strage, perché era il gruppo dove si trovava anche Valpreda. Abbiamo deciso di raccontare questa storia perché è inedita in realtà, cioè loro non hanno mai raccontato la loro storia come l'hanno raccontata a noi, e quindi abbiamo deciso, ecco, di dargli voce, perché pensiamo che, diciamo, la loro testimonianza sia importante per anche ricostruire quella che è ancora, diciamo, uno dei misteri italiani dell'assurdo, perché è una strage senza colpevoli a 50 anni, quindi insomma forse la loro dichiarazione l'abbiamo ritenuta importante. Ecco. Come è nato il progetto di questo film? Principalmente perché noi avevamo comunque un filo che ci legava, perché Matteo comunque ha militato e milita ancora insieme ai compagni Roberto e anche con Enrico Di Cola presso la sede del Bakunin che sta a Terbatella. Allora, è un secondo momento, infatti, dopo che comunque lui si era incontrato e loro stessi hanno richiesto infatti un aiuto da parte di Matteo, che già è uscito con il suo piccolo capolavoro che è Mondo Cane. Allora ha deciso quindi di contattarmi e di mettermi in mezzo a questa storia. E quindi abbiamo cominciato quindi a realizzare delle interviste, all'inizio preliminari e poi a impuntarle e a strutturarle in una maniera un po' più incentrata nel realizzare un vero e proprio film, un documentario che sia testimonianza, come diceva pure Matteo prima, e di racconto di quello che era allo specifico che è il 69 e poi un periodo che è tutto quello che verrà da dopo il 69 e dopo quello che è lo scoppio della bomba a Milano. Ecco, che struttura avete dato al film? Si parte, diciamo, da quello che era il 68, perché loro comunque erano studenti, diciamo, delle superiori. Loro si definiscono studenti medi, però poi in realtà diciamo era diversa un po' la distinzione, poi abbiamo scoperto che era diversa, no? Nel senso che erano tre anni di medie, poi c'erano due anni di superiori più tre, quindi insomma c'era tutto un era diverso, diciamo, come non era come oggi. Quindi abbiamo strutturato la loro amicizia che nasce dai banchi di scuola e purtroppo poi invece finisce sui banchi di imputazione per la strage. quindi diciamo abbiamo deciso di partire da quei banchi più innocenti per farli invece poi rincontrare purtroppo sui banchi di appunto dell'accusa, dove erano sempre innocenti, quindi comunque questo ci aveva colpito molto, questo fatto che loro erano partiti diciamo con le buone intenzioni, cioè comunque credevano nella possibilità comunque che un altro mondo era possibile, invece poi si sono ritrovati purtroppo a essere accusati di un gesto così infame come quello che è stato la strage di Piazza Fontana e del Comune a Roma. Quindi diciamo abbiamo deciso di strutturarlo diciamo ecco come anche una crescita che è stata loro politica, perché comunque anche diciamo iniziare dalle occupazioni di scuola per poi arrivare ecco a uno sciopero della fame, perché diciamo il loro il momento che loro hanno portato avanti di lotta è stato uno sciopero della fame, infatti portato in concomitanza all'inizio del 69 con un altro gruppo di Milano, e fatto apposta per delle bombe che scoppiarono praticamente il 25 aprile a Milano, e quello fu per esempio un momento di lotta per loro molto importante, ma anche molto importante per tutto il restante poi della storia, anche perché loro incontrano via Pinelli e a Milano incontrano Valpreda, su dal contrario incontrano a Roma Valpreda e a Milano Pinelli, quindi poi diciamo che quello che loro poi diciamo di messaggio danno anche nelle interviste è che probabilmente loro li avevano proprio inquadrati come possibili accusati, nel senso perché avevano queste amicizie che erano diciamo i mostri perfetti in questo senso, e però poi dopo crolla tutto anche grazie al lavoro che c'è stato poi di lotta esterna, perché poi affrontiamo anche quello, nel senso che grazie anche al libro A strage di Stato, la candidatura di Valpreda, al manifesto, però insomma loro riescono comunque a dichiarare la loro innocenza anche grazie al movimento che c'è fuori, quindi diciamo questo non l'abbiamo dimenticato, abbiamo deciso anche di appunto parlare di questo nel film, perché comunque ci è sembrato importante ricordare anche quanto era molto più unita probabilmente la lotta in confronto ad oggi, ecco diciamo è anche un modo di far vedere com'era in confronto ad oggi, diciamo anche perché sono passati 50 anni, quindi sono mezzo secolo, quindi sì, indubbiamente sono cambiati sia i costumi anche i metodi di lotta. Oggi è impensabile provare a fare anche uno sciopero della fame, cioè nel senso così, 15 persone. Sì. Diciamo che un approccio infatti interessante è stato proprio questo, cercare di analizzare a livello storico come ci sono anche delle differenze, non tanto nei movimenti, ma anche di come sentire la lotta individualmente, perché come dicevo prima, i personaggi di questa storia comunque noi li prendiamo che sono dei ragazzi e li portiamo avanti da quando diventano comunque adulti, da quando veramente si sposano, hanno figli, quindi anche proprio questo approccio qua, vedere come da giovani comunque sia ci stava qualcosa che oggigiorno è anche difficile da riuscire a fare approcciare magari altri a un'altra generazione. Che tipo di circuitazione state pensando? In questo momento abbiamo diciamo un accordo commerciale con l'archivio del Movimento Operaio Democratico, in questo momento quindi diciamo abbiamo deciso di far girare questa copia a lavoro proprio perché diciamo nei momenti della ricorrenza abbiamo pensato che era giusto che loro, perché loro comunque hanno continuato negli anni a fare sempre le commemorazioni diciamo della strage e portare avanti il ricordo sia di Pinelli che di Valpreda, e quindi diciamo abbiamo deciso che poteva essere uno strumento nelle loro mani per appunto raccontare meglio la loro storia, nel senso che il film comunque racconterà la storia attraverso sempre le loro voci, però le racconterà diciamo con linguaggio filmico, mentre loro comunque dal vivo in genere raccontano anche dettagli molto più specifici, quindi diciamo che anche quello che è stato il processo noi lo affrontiamo, però certo lo affrontiamo in una maniera filmica, quindi comunque diciamo ci sono anche dei salti temporali tra diciamo il 72 e il 74, perché comunque poi dopo si scopre che la pista era nera, cioè all'inizio si pensava che era la sinistra, poi invece si scopre che all'estrema destra per messo le bombe, no? Quindi comunque diciamo loro raccontano dal vivo in maniera diversa comunque tutta la loro storia, e quindi diciamo abbiamo pensato di fare questo strumento nelle loro mani, quindi sarà anche diciamo un modo per girare anche altre sequenze in realtà, quindi probabilmente il film nella sua completezza uscirà nel 2020. La circuitazione ancora non ci abbiamo pensato in realtà, però pensiamo di farlo girare forse per qualche scena, per qualche festival, per dare più che altro una risonanza il più possibile ampia, anche da un punto di vista comunque sia strettamente cinematografico magari si può dire, principalmente però mantenendo anche quella della natura indipendente, perché questo ricordiamo e sottolineiamo che è un film totalmente indipendente, fatto come noi amiamo magari definire una scarpa e una ciabatta production, quindi con tutti i dovuti limiti, ma anche le libertà tecniche e stilistiche. Infatti cogliamo anche l'occasione tutti e tutte quelle che hanno lavorato, diciamo, al film, a ringraziare soprattutto chi ci ha dato una mano, no? In forma gratuita, quindi insomma è stato, anche noi abbiamo lavorato in forma gratuita, abbiamo sentito di doverlo fare e diciamo non ce ne stiamo pentendo. Assolutamente no, assolutamente no, è stata una bellissima esperienza fino adesso e speriamo di portarlo avanti infatti nelle prossime proiezioni con il pubblico e permettere, quindi come dicevamo prima, di rapportarci anche con il pubblico durante queste proiezioni, permettendo comunque ai nostri personaggi che riprendiamo di dare modo a loro anche di specificare magari dei dettagli, delle cose che sicuramente dal vivo sarà anche più interessante sentire. In chiusura ci date appunto tutti i riferimenti per saperne di più sul lavoro? Allora sì, abbiamo una pagina Facebook che si chiama 12/12/Piazza Fontana, comunque si trova, anche perché abbiamo deciso di usare questa data che riprende il titolo di un film di Pasolini, in realtà fatto con Lotta Continua, che era 12 dicembre. Ci sembrava brutto rubare a uno dei maestri del cinema il titolo, quindi abbiamo deciso di dargli, diciamo, una connotazione più alla Michael Moore, dicendo, usando questo font 12/12 come 11 settembre, perché diciamo che è stata una data molto importante, diciamo, nella storia d'Italia, quindi abbiamo deciso di dargli questa, diciamo che quello è stato il nostro 11 settembre, diciamo, da un certo punto di vista. Beh, sì. E quindi siamo sulla pagina Facebook, chiunque vuole contattarci anche per proporre delle proiezioni o comunque, ecco, abbiamo anche ricevuto tramite la pagina del materiale dell'epoca, che se qualcuno ha delle foto da parte, insomma, ci fa piacere averle e magari anche inserire nel montaggio. E quindi diciamo sì, questa è la pagina e da lì, diciamo, rispondiamo a tutti, quindi possiamo essere contattati lì. Proiezione della copia lavoro del film 12/12 Piazza Fontana il 12 dicembre 2019 al Nuovo Cinema Palazzo a Roma e il giorno dopo, il 13, in contemporanea sia al Centro Sociale Forte Prenestino che al Brancaleone. Un saluto e un ringraziamento ai registi Matteo Bennati e Maurizio Scarcella. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. A voi. Claudia Tosi sul suo documentario I Had a Dream, aveva un sogno. A Roma, spazio Apollo 11, proiezione, incontro con l'autrice, giovedì 12 dicembre 2019. Claudia, ben trovata. Salve, ciao Enrico. Lo raccontiamo brevemente? I Had a Dream è la storia di due politiche campigiane che avevano, diciamo, all'inizio della loro avventura politica nel 2008, il sogno di cambiare l'Italia, di rendere un paese più a misura di donna. Nell'arco dei 10 anni in cui il film è stato girato, le cose effettivamente sono un po' cambiate, non come immaginavano, quindi le nostre due eroine si sono scontrate con la dura realtà e con la difficoltà di fare politica essendo donne in un paese come l'Italia. Com'è nata l'esigenza di realizzarne un documentario? Ma diciamo, all'inizio, nel 2008, la mia idea era quella di realizzare un instant movie, un film che raccontasse la sconfitta di Berlusconi alle politiche del 2008 per mano, diciamo, per la mano simbolica di queste due donne che abitano nella mia cittadina. Quindi l'idea mia era quella di fare un film sulla politica dall'interno, quindi attraverso il racconto quotidiano dell'attività di queste donne, attraverso un rapporto di intimità, mostrando delle persone impegnate in politica quel volto che noi non vediamo mai, perché in televisione noi vediamo molto altro. Insomma, volevo mostrare la persona dietro la maschera del politico. E il fatto che ci fossero queste due persone, di cui una candidata per il Parlamento nel mio comune, mi sembrava, insomma, un colpo di fortuna, quindi attraverso di loro potevo realizzare il mio film sulla politica italiana. Poi in realtà Berlusconi ha vinto le elezioni, quindi il film non aveva ragione di esistere, quantomeno non aveva ragione di esistere in quanto un instant movie, e l'ho parcheggiato, ho continuato a lavorarci perché dal resto d'Europa mi sembrava di capire che ci fosse interesse per una storia che raccontasse le donne italiane in politica, di cui proprio non si sapeva nulla. Ho seguito dal 2011 anche le vicende legate a Se non ora quando, ho continuato fino a che non siamo arrivati alla fine dei due mandati delle mie protagoniste, una in ambito parlamentare, l'altra invece su un livello locale in quanto assessora, quindi con la fine, diciamo, dei loro mandati ho idealmente chiuso il film e ho deciso di farlo uscire, anche perché in questo arco di 10 anni proprio si coglieva un arco narrativo pieno, che in realtà non corrispondeva a un cambiamento loro, ma un cambiamento della nostra società, della nostra realtà politica, insomma, come abbiamo visto anche alle ultime elezioni politiche, quelle del 2018. Cosa apprezzavi del loro pensiero e della loro azione? Sai, siamo 3 emiliane noi, quindi io amo molto la schiettezza nei modi, amo molto la concretezza, la sincerità, l'onestà, la determinazione e soprattutto la competenza. Quello che ho amato fin da subito delle mie protagoniste, che non conoscevo prima di iniziare a girare questo film, è stato proprio constatare la grande serietà con cui si preparavano per le loro campagne, soprattutto a livello parlamentare, da parte di Manuela, per le sue battaglie in favore della scuola. C'era proprio tanta competenza, tanta preparazione, tanto studio. Da un punto di vista politico non eravamo sempre allineati, diciamo che non l'abbiamo sempre pensata allo stesso modo, però c'era un grandissimo rispetto reciproco e io ho amato molto di loro questa loro grandissima determinazione, questa passione proprio incrollabile, nonostante gli urti della realtà politica in cui erano immerse. E poi sì, vabbè, sono due donne estremamente ironiche, quindi ci siamo anche molto divertite e si è creato un legame, un po' di sorellanza che insomma un po' mi manca adesso, perché ci vediamo ovviamente un pochino meno frequentemente. Quindi insomma le ho amate molto proprio per questo grandissimo impegno. Per me sono due donne che hanno davvero rappresentato un esempio. Per come lo hai vissuto, secondo te come è cambiato, come si è modificato il panorama in questi anni? Io e le mie protagoniste abbiamo registrato, diciamo, dati diversi, o comunque li abbiamo letti in modi diversi. Loro, quello che hanno visto cambiare è stato il modo in cui il cittadino si rapporta con la politica, cioè in particolare Manuela mi ricorda sempre, e per lei è un aspetto abbastanza negativo, il fatto che ora il cittadino non più nella politica in quanto rappresentanza, ma soprattutto si presenta con istanze individuali, non si muove più all'interno di un collettivo. Lei era molto colpita dal fatto, per esempio, che quando doveva incontrare gli insegnanti, che erano un po' la categoria di lavoratori con cui si relazionava di più, questi incontri venivano organizzati su Facebook. Non c'era mai, non so, una sigla sindacale che coordinasse un comitato, c'era proprio Facebook. E questo per lei era un grande cambiamento. Lei è una donna forse un po' tanto del Novecento per come vive la politica. Quindi lei ha visto molto questo cambiamento, il fatto che il cittadino arrivava da lei con delle richieste che avevano a che vedere col personale. Però il politico non si può, mi diceva sempre lei, occupare del personale, cioè deve comunque amministrare, deve governare per un grande numero di persone, si deve compiere una sintesi. Io in realtà quello che mi ha colpito molto, soprattutto osservando il materiale che avevo girato, a me ha colpito molto vedere che tante cose che ora sono un po' esplose davanti ai nostri occhi in realtà erano già lì 10 anni fa, cioè magari con le orecchie un po' più aperte molto disagio l'avremmo potuto cogliere moltissimi anni fa. Le richieste di oggi sono le stesse che facevano nel 2008. Perché quando mi sono andata a riguardare gli incontri di Manuela, perché era lei la candidata al Parlamento, la sua collega Daniela invece era la mandataria ed era l'assistente, quindi era una figura di aiuto, la politica, quella che si era candidata era Manuela. E quando lei incontrava gli elettori vedevo avanzare richieste che sono le stesse che magari oggi vengono avanzate con tanta rabbia. Quindi forse c'era un po' meno rabbia, però le istanze erano più o meno le stesse. E mi ha colpito il modo in cui in questi 10 anni forse il partito di Manuela e Daniela, cioè il PD, abbia avuto poca attenzione per il sociale. Tanta attenzione per i diritti, e questo è bellissimo, però poca attenzione per le questioni sociali. Si chiedeva del lavoro già nel 2008 e ancora la crisi non era poi esplosa come esplosa da lì a pochi anni. Però sì, insomma, questo disagio c'era già. Allora, il film ha avuto notevoli riscontri nei festival internazionali. È andato benissimo, io sono estremamente colpita perché È un film che è stato girato con pochi mezzi, lo devo dire, perché gli investitori europei, diciamo, erano tutti interessati, ma non è che si strappassero i capelli per lanciarsi in questa avventura e per buttarci soldi, perché erano abbastanza titubanti, no? Tipo un altro film femminista, un altro film sulla questione delle donne, soprattutto un film sulla politica italiana, mamma mia, non ci capiamo nulla, insomma, e tutti volevano vedere il film finito per capire se davvero era qualcosa che poteva essere appetibile per le loro televisioni oppure per il loro pubblico, quindi ho dovuto lavorare veramente con pochissimi mezzi e soprattutto in una realtà piccola piccola che è quella del mio comune, quello di Carpi. Però in realtà il film ha avuto la sua prima mondiale a Leipzig ed è stato accolto benissimo, le sale erano sempre piene, abbiamo fatto sempre sold out e soprattutto abbiamo vinto, insomma, tutti e tre i premi che potevano venire assegnati nella nostra categoria, che era la categoria principale, quindi la Golden Dove e i Cipresci, quindi anche il premio della stampa e il premio della giuria interreligiosa. Sì, sì. E da lì, ovviamente, essendo Leipzig un festival molto importante di fascia A, il film è stato richiesto da tanti altri festival, quindi siamo stati un po' dappertutto, persino in Nord America, in Canada, dove siamo stati sia a Hot Dog che ad Oxa, poi vabbè, in Europa un po' dappertutto, e adesso abbiamo festival fino a gennaio, insomma, da Zagabria, Belgrado, Romania, Stoccolma, adesso ci sarà l'Islanda, poi altri che non posso ancora annunciare, ovviamente, però sì. E piace molto e piace per motivi diversi. Romania, Serbia in particolare, nel film trovano molto di se stessi, cioè lo trovano un film che potrebbe davvero raccontare anche la loro realtà. Invece mi sembra che i paesi nordici e la Germania vedono il film un po' più come un monito, cioè guardate cosa potrebbe succedere anche da noi, quindi è un film che un po' li mette sul chi va là. Comunque il pubblico reagisce bene e alla fine ci sono Q&A interminabili, c'è chi coglie un segnale di speranza, altri invece vedono molto sconforto, anche perché le mie protagoniste nel film dichiarano un po' questa disillusione e un po', diciamo, la frantumazione del loro sogno. Però sì, insomma, funziona bene in sala. Bologna è stato presentato al Biografi Festival, dove ha vinto il premio del pubblico, quindi anche lì è stato accolto benissimo. Insomma, sono contenta, ma soprattutto la cosa che mi fa piacere è che questo film, soprattutto per la risposta che il pubblico sta dando, sta aiutando molto le mie protagoniste a rileggere anche la loro avventura e a vedere quegli aspetti positivi che ho visto anche io, cioè riescono a capire perché il loro può essere un buon esempio, ma di quei buoni esempi che possono servire a fare affezionare nuovamente le persone alla politica. Ci dai dei riferimenti internet per seguirlo? Abbiamo la pagina Facebook di I Had a Dream Film, quindi lì per il momento è dove posto le informazioni, le proiezioni, anche le pubblicazioni che vengono fatte sul film, quindi ci sarà anche questa intervista ovviamente, e prossimamente ci sarà poi anche il sito, anche perché mi servirà per la campagna per gli Oscar, quindi prima o poi bisogna che mi decida a fare anche quello e ve lo farò sapere senz'altro. I Had a Dream, avevo un sogno, un saluto e un ringraziamento alla regista Claudia Tosi. Claudia, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Anche a te, grazie mille, buona serata e grazie a tutti. Claudia Tosi sul suo documentario I Had a Dream, aveva un sogno. A Roma, Spazio Apollo 11, proiezione, incontro con l'autrice, giovedì 12 dicembre 2019. Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, curatore della nona edizione della rassegna A qualcuno piace classico. Appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 5 novembre 2019 al 26 maggio 2020. Stefano, ben trovato. Salve a tutti, ciao Federico. Quanti titoli? Allora, anche quest'anno abbiamo 15 titoli e anche quest'anno lo spirito è ormai, insomma, è un appuntamento consolidato con il pubblico di appassionati del cinema di Roma e il filo rosso è l'amore per il cinema e come sempre spaziamo dal muto fino agli anni 80 in modo libero e corsaro, ecco. Già il 5 novembre si parte subito con un titolo meraviglioso che è Mancia competente di Lubitsch, una commedia irresistibile di cui Lubitsch stesso dichiarò che non aveva mai fatto di meglio in quanto a stile, e se lo diceva lui, insomma, potete immaginare il livello di questa commedia. Poi abbiamo tantissimi maestri, tantissimi titoli eccezionali come sempre, da Rosso Sangue di Carà al Braccio Violento della Legge di Friedkin, da La Tua Bocca Brucia con Marilyn Monroe a Harry il Tonto di Mazursky, Danton di Vaida. C'è anche Paulina la Spiaggia di Eric Rohmer il 17 marzo del 2020, che è una data non casuale perché nel 2020 ricorre peraltro il centenario della nascita di Rohmer, sarebbe esattamente il 21 marzo, quindi è un po' un omaggio, insomma, con uno dei suoi titoli peraltro più leggeri e più amati della serie Commedie e Proverbi. Un altro titolo che mi interessa sottolineare e che penso possa interessare moltissimo anche al pubblico, non solo di cinefili, è Michael di Breyer. Tu sai, ogni anno noi facciamo un grande titolo del muto accompagnato dal vivo al pianoforte, sempre con Antonio Coppola. Questo film che Dreyer, il grande regista danese, ha girato in Germania nel 1924, è uno dei primissimi film che racconta un amore omosessuale. Quindi diciamo che al di là dello spirito cinefilo è anche un reperto sociologico molto interessante. Ecco. A me fa piacere anche perché queste rassegne sono l'occasione per il pubblico anche per tornare a vedere dei registi tuttora attivi, però in altre epoche del loro cinema. Per esempio quest'anno si è parlato molto di Dolore e Gloria di Almodovar, che ha avuto un grande successo. Noi rifaremo anche La legge del desiderio, che credo sia la vetta della collaborazione tra Almodovar e Banderas. Per chi ha amato Dolore e Gloria, La legge del desiderio è veramente un film assoluto, insomma, un film dell'87, quindi che ormai ha più di 30 anni. E anche per chi ama Woody Allen e magari ha amato anche gli ultimi film, rimane imperdibile il film di chiusura che hanno le sue sorelle, che è un altro film che ormai ha più di 30 anni e che è una delle vette assolute della maturità di Woody Allen. Insomma, aveva una commedia in equilibrio perfetto tra il pessimismo filosofico e il divertimento. Insomma. Una curiosità, come mai avete posizionato il confine temporale agli anni Ottanta? Da un po' di tempo che facciamo anche molti film degli anni Ottanta, che ormai, detto fra noi, cominciano ad avere 30-35 anni, quindi già appartengono, diciamo, a un'epoca da cineclub. Anche a noi fa un po' impressione perché sono film che magari abbiamo visto da adolescenti e quindi ci sentiamo un po' vecchi a considerare questo fatto, però è un po' come in un cineclub degli anni 70 che programmano i film degli anni 40, se ci pensi, insomma. Dici perché per gli anni 90 è ancora presto. Per gli anni 90 forse è ancora presto, però alla ventesima edizione ci sposteremo un pochino anche sui 90. Il martedì quindicinale a ingresso gratuito. Sempre ingresso gratuito fino a esaurimento posti, come sempre le proiezioni sono solo in pellicola 35 mm. Ricordo un altro paio di titoli, per esempio c'è I dannati gli eroi di John Ford, che è un altro film intrigante, a parte che viene presentato con una bellissima copia in Technicolor, ma è anche uno dei primi film hollywoodiani in cui il protagonista è un eroe afroamericano. Anche questo è nella filmografia praticamente sterminata di John Ford, è una piccola chicca, ma abbastanza poco conosciuta in Italia, però da riscoprire. Poi c'è Fassbinder con La terza generazione, che forse è uno dei film più interessanti e sofisticati sulla stagione del terrorismo. È un film del 79 che è veramente imperdibile. E poi anche abbiamo messo anche un classicissimo italiano, che è Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che è un film che conosciamo tutti, ma insomma, da rivederlo in sala è sempre una grande esperienza. Ci racconti anche un po' dell'attività dell'associazione, la Farfalla sul Mirino? L'associazione ormai lavora sulle rassegne su Roma dal 2002, quindi sono 17 anni. ogni anno noi, ecco, abbiamo ormai questa collaborazione consolidata con Pala Expo, con cui facciamo sia la rassegna dei classici sia di solito un grande evento annuale. Quest'anno a febbraio e marzo c'è stato, come ricorderai, l'omaggio a Renoir, l'anno prima c'era stato Bergman, insomma sono delle grandi rassegne che seguono sempre la nostra filosofia, ingresso gratuito, proiezione in pellicola, e che effettivamente riscuotono un grandissimo successo e ne siamo molto felici. A proposito della pellicola, ci sono anche titoli restaurati? Ma lo sai che c'è, che ormai i restauri non si fanno più in pellicola da tanti anni purtroppo, okay. E nel senso che i restauri che si fanno adesso difficilmente c'è un ritorno in pellicola, è tutto digitale, si produce un DCP, sì. Quindi noi cerchiamo di lavorare sempre con le copie migliori possibili, molte sono anche copie d'archivio conservate meravigliosamente, però ecco, o magari sono copie che sono state restaurate ma 10-15 anni fa. Sì. Oggi purtroppo insomma le grandi cineteche e i laboratori cioè è molto raro che fanno anche un ritorno in pellicola dei restauri, insomma. Quindi ormai il discorso sulla pellicola è quasi da riserva indiana, però gli spettatori che vengono a seguire le nostre iniziative spesso invece poi rimangono colpiti e vengono convertiti alla causa del 35 mm. Tu calcola sempre che tutti i grandi registi di Hollywood in realtà girano ancora il 35 mm, malgrado poi i film vengano ovviamente distribuiti in digitale. Però insomma da Tarantino a Nolan a Paul Thomas Anderson, ma anche l'ultimo Star Wars, insomma, sono stati girati in pellicola, per cui, cioè, come dire, la qualità della pellicola non è messa in discussione neanche dalle grandi major hollywoodiane di oggi, insomma. Rimane comunque uno standard non irraggiungibile, insomma, ecco, almeno per noi. Stefano, facciamo anche un bilancio delle passate edizioni, c'è sempre stato il tutto esaurito da quanto ci racconti? Sì, praticamente quasi sempre tutto esaurito, sì sì, anzi spesso ci sono anche lunghe code eccetera, infatti invitiamo sempre gli spettatori a venire un po' prima, i biglietti gratuiti sono a disposizione a partire dalle 20 e l'ingresso a Pala Expo è dalla scalinata di via Milano. Devo dire, insomma, soprattutto siamo contenti del fatto che più della metà del pubblico è di ragazzi giovanissimi, diciamo tra i 20 e i 25 anni, e questa è una cosa per noi quasi commovente, insomma, ecco, vedere ragazzi di 20 anni che vengono a vedersi un film di John Ford, di Lubitsch, è una bella cosa, è il motivo per cui poi facciamo tutte queste cose. In chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sì, conviene andare sul sito direttamente di Palazzo delle Esposizioni, palazzoesposizioni.it. Ricordo ovviamente che l'evento è organizzato oltre che dalla Farfalla sul Mirino e da Pala Expo anche dalla Cineteca Nazionale, al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è il nostro partner ormai da tantissimi anni ed è un partner imprescindibile. Nona edizione della rassegna Qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 5 novembre 2019 al 26 maggio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, che è uno dei curatori della rassegna. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, credo il lupo. Ciao Federico. Ciao. Con Alessandro Del Re, uno dei curatori della rassegna itinerante 1989-2019, 30 anni senza muro, che andrà avanti fino a dicembre 2019. Alessandro, ben trovato. Ciao Federico, ciao. Cos'è questa rassegna? È un progetto che è stato reso possibile dalla casa di distribuzione Reading Bloom ed è curato da me e Federico Rossin, che è uno storico del cinema e programmatore freelance. L'idea era un po' quella di cercare di tornare su un evento storico così importante come la caduta del muro di Berlino 30 anni dopo e provare a darne anche un'altra lettura, vedere altri punti di vista. In questo senso abbiamo proposto solo film prodotti e girati da registi della DDR. E sono tre documentari che si svolgono a cavallo del 1989, quindi mostrano un prima, un durante e un dopo la caduta del muro di Berlino. E facendo questo pensavamo e pensiamo che il pubblico potesse anche fare un percorso all'interno di un evento storico così importante, cercando di cogliere un altro sguardo, un altro punto di vista, cercando di porre delle domande a un evento tale e soprattutto cercando di ragionare anche a partire da quello su quello che siamo oggi e la nostra identità di Europa che nasce fondamentalmente quel giorno là. Che quadro ne emerge da questi tre lavori? Fondamentalmente molto diverso rispetto a quello che di solito siamo abituati a vedere. Fondamentalmente la narrazione su il muro di Berlino si spiega con Reagan che dice a Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall, e i Pink Floyd che nel giugno del 90 suonano a ridosso del muro di Berlino e fanno cadere quel metaforico muro. Chiaramente questi sono due eventi pop e noi volevamo discostarci da questo tipo di narrazione e vedere con gli occhi di chi non ha potuto scrivere la storia, perché chiaramente la storia poi la scrivono i vincitori e quindi la scrive l'Ovest. L'Est invece propone un altro tipo di lettura, c'è Die Mauer, il film centrale, che è proprio un film dedicato esclusivamente al muro, dove il regista si interroga su qual è il senso di filmare quando si filma la storia, cosa sto filmando nel mentre io filmo questo avvenimento. Quindi il regista si domanda: questo muro cosa ha significato realmente, dov'è che nasce? E ne propone una lettura che ovviamente è diversa rispetto a quella che abbiamo sempre dato. E non volevamo proporre una visione, quella di Le vite degli altri, di Goodbye Lenin, che sono due tra i film più celebri sulla Germania dell'Est, perché ci pareva più interessante provare a cambiare sguardo, cambiare prospettiva. E credo che il pubblico stia molto apprezzando quest'idea. Com'è nata l'idea di una rassegna itinerante? Ci siamo incontrati io e Federico Rossin al Festival Le Voci dell'Inchiesta. Io avevo intenzione di fare un piccolo progetto su magari un paio di corti da mostrare in una decina di sale sulla caduta del muro di Berlino. Federico, che ha dedicato tutto il 2018 allo studio del cinema documentario della DDR, quindi alla produzione della casa di produzione La Defa, ci siamo incontrati e abbiamo deciso: perché non facciamo un qualcosa che abbia il livello di curatela di un programma, una retrospettiva da festival? Perché poi era questa la nostra idea, un prodotto che di solito circola nei festival, che però può raggiungere il grande pubblico. E noi pensavamo chiaramente che avremmo potuto fare una decina, una quindicina di proiezioni. In realtà adesso abbiamo la rassegna che è in 50 sale. Più o meno tra ottobre e fine dicembre andrà in 50 sale, quindi è stata un'idea soprattutto molto apprezzata dal pubblico, perché l'idea poi forte era quella di proporre una rassegna che potesse raggiungere il grande pubblico partendo da un'idea di curatela molto forte, quindi provare a portare un prodotto che di solito va nei festival di cinema, ma facendo dialogare un'intera nazione. Questo è stato un grandissimo risultato, viste anche quante proiezioni faremo della rassegna e il calore che il pubblico ci sta mostrando, perché le proiezioni sono sempre molto affollate e con dei dibattiti molto lunghi. Ecco, quindi si sono previsti anche momenti di incontro insieme al film. Sì, esatto, abbiamo fatto un primo tour con Federico Rossin a metà ottobre, abbiamo fatto Milano, Trieste, Brescia, Torino e adesso sarò io in tour, quindi sì, c'è una forte richiesta soprattutto perché il pubblico e le sale apprezzano il fatto che ci sia un discorso da costruire dietro, quindi anche un dialogo da intraprendere col pubblico. È un'operazione che chiaramente noi pensavamo potesse funzionare, ma non pensavamo che funzionasse fino a questo punto. Siamo molto contenti del risultato. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Certo, potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Reading Bloom. Le proiezioni sono in costante aggiornamento, quindi sintonizzatevi sulla pagina di Reading Bloom o di Facebook o di Instagram e troverete tutta la lista delle sale che proietteranno la rassegna. Potrete chiederci anche di organizzare una proiezione, noi saremo ben contenti di portare la rassegna nella vostra città. Potete trovare comunque tutto sui social media. 1989-2019, 30 anni senza muro, rassegna itinerante distribuita da Reading Bloom. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Del Re. Alessandro, un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te Federico, un abbraccio a tutti voi. Con Maud Corino, coordinatrice della sesta edizione del Mese del Documentario, in tour in 7 città italiane dal 28 novembre 2019 al 27 gennaio 2020. Maud, ben trovata. Grazie. Raccontiamo il Mese del Documentario per chi non lo conoscesse. Certo, è un'iniziativa di DocKit, l'Associazione dei Documentaristi Italiani, che è nata insomma per diffondere il cinema del documentario, ha la particolarità appunto di svolgersi non in una sola città, ma di essere un festival itinerante e quindi comincia da Roma e poi insomma prosegue in una serie di città dal nord al sud Italia, da Milano fino a Palermo. Iniziamo il 28 di novembre con un film, un documentario siriano molto bello, ma insomma, anche abbastanza feroce, che si chiama The Cave, e di questo regista Seraf Fayad, già candidato all'Oscar con Last Man in Aleppo. Lui torna in Siria e questa volta, insomma, laddove è originario, Ghouta, che è un sobborgo di Damasco. Siamo nel 2016 e sono questa volta la Siria è stata, come dire, bombardata da tutti i bombardamenti russi. Sopra la terra non si può più vivere, cioè in superficie non è possibile, è tutto molto distrutto e ancora sotto i bombardamenti. Questo gruppo di dottori, ma più che altro di dottoresse, anche questa è la particolarità, opera sottoterra, nel senso che l'ospedale viene spostato, e questo è il senso del titolo anche The Cave, proprio sottoterra. E questo film racconta di queste dottoresse, soprattutto di una che è la manager dell'ospedale, che in questa situazione continuano a lavorare, a curare, a soccorrere, chiaramente in una situazione apocalittica, la fine del mondo, comunque con speranza, con forza, incredibili, e sono però, la particolarità appunto è, sono un gruppo di dottoresse in un mondo, come dire, che non lo era, ma che ormai da una decina di anni con la guerra civile è già prima, è sempre più islamizzato, religioso, eccetera. Il problema anche in questa cosa, non ci si aspetterebbe che sotto le bombe e nell'emergenza questo possa essere, come dire, un discrimine, però molto spesso si vede nel film, i pazienti insomma che arrivano hanno anche il problema di dire: non è possibile che siano le donne, non puoi essere tu la manager dell'ospedale, insomma c'è anche tutta una questione rispetto al sessismo sistemico che c'è. E quindi iniziamo il 28 di novembre, giovedì, alla Casa del Cinema, tra l'altro con una serie di ospiti, ONG, Emergency, Un Ponte Per, testimoni diretti insomma anche di quegli anni, perché poi adesso si parla anche molto giustamente di Siria del Nord, della questione curda, eccetera, ma c'è da sottolineare che insomma lì Damasco e dintorni, la parte sudorientale, così ormai non c'è neanche più un ONG presente, è un territorio insomma massacrato, e lì proprio anche il film ne parla, di anche bombardamenti chimici, insomma è proprio una situazione in cui sono stati perpetrati e continuano dei crimini contro l'umanità non iniziamo, come dire, allegramente, però è sicuramente un documento da far vedere, che è anche un po' il senso della rassegna, cioè quello di far vedere il cinema del reale e anche di discutere, come dire, della contemporaneità, cioè se il cinema del reale fa una parte importante della sua produzione, anche farci vedere cosa succede, ecco, nel mondo. In totale quanti sono i lavori? Ecco, l'altra particolarità della rassegna è che rispetto a molti altri festival in cui, insomma, vengono presentati molti film, qua la selezione è ristrettissima, nel senso che un mese, e quindi sono 4 film, 2 internazionali e 2 italiani. Quindi poi la rassegna, dopo The Cave, il primo internazionale, continua con un documentario italiano che si chiama Non è sogno, di Giovanni Cioni, che racconta la situazione carceraria, ma lo fa attraverso un laboratorio fatto in carcere con i carcerati, e ha la particolarità di non parlare solo di carcere, ma di parlare un po' della condizione umana in generale, cioè di cos'è la vita, della libertà, delle costrizioni anche che uno autonomamente si dà, eccetera. È una cosa molto particolare. Giovanni Cioni, il regista, sarà presente a Roma e anche nel resto delle città del mese del documentario, ed è un regista, insomma, che vale assolutamente la pena di incontrare. Dopodiché siamo al terzo film, che si chiama One Child Nation, che è un film di 2 registi cinesi che riflettono la politica del figlio unico a partire, insomma, dal 75 in Cina, con una propaganda massiva e con un tasso di violenza non indifferente, la popolazione viene costretta ad avere un solo figlio, e adesso nel 2015 si possono avere 2 figli. La questione viene affrontata in un modo molto personale, perché una delle 2 registe, ormai trasferitasi in America, torna nel suo paese natale in Cina e comincia un'indagine in quello che era il suo villaggio abbastanza remoto in campagna, su coloro che hanno perpetrato la politica del figlio unico, cioè i responsabili del villaggio e anche, come dire, le vittime. Ed è, insomma, una riflessione che intreccia sia la libertà personale, sia chiaramente la propaganda, l'idea di sviluppo di un paese a varie complessità. Questo film è nato, perché appunto lei è cinese ma è residente ormai in America, per il mercato americano. E per il mercato americano c'è una versione, insomma, un po' più corta, mentre noi, insomma, abbiamo una versione un po' più lunga, in cui l'autrice fa una riflessione sul fatto che, insomma, lei venga da un paese in cui la gente era forzata ad abortire per andare in un paese in America in cui abbiamo visto già l'anno scorso che sempre di più alcuni stati stanno adottando invece delle vere e proprie restrizioni sull'aborto. E diciamo che questa parte qua per il mercato americano non c'è, mentre invece il nostro pubblico giustamente potrà vederlo, ecco. Concludiamo poi con un film italiano molto personale, che si chiama Una Primavera, di Valentina Primavera, che è una regista giovanissima che abita a Berlino. Questo film ha vinto un premio al Biografilm di Bologna, non è ancora girato in Italia, mentre invece in Austria e in Germania è proprio uscito nelle sale, ed è il racconto della sua famiglia, nel senso che la madre, dopo 40 anni di matrimonio, decide di separarsi dal marito, piuttosto violento, una situazione non facile che ha subito per anni, scappa dalla figlia a Berlino e la figlia decide di prendere la telecamera e di raccontare questo percorso verso la liberazione, che ha, come dire, alterne fortune. Però è una riflessione, insomma, molto interessante, sia sulle dinamiche familiari, sulla difficoltà anche di superare alcuni schemi, alcune idee della società legate alla famiglia. A Roma, appunto, iniziamo giovedì il 28 e poi proseguiamo per i successivi 3 lunedì fino al 16 dicembre. Ecco, per seguire la programmazione ci dai tutti i riferimenti? Sì, il sito è ilmesedocumentaristi.com e poi Facebook e Instagram Il Mese del Documentario. Sesta edizione del Mese del Documentario, in tour in 7 città italiane dal 28 novembre al 2019, del 2019 al 27 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento alla coordinatrice Maud Corino. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, a presto. con Claudio Storani di Rete degli Spettatori per parlare della rassegna A Tutto Schermo da martedì 15 ottobre 2019. Claudio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Ci parli di questo progetto? Sì, A Tutto Schermo è un progetto che ormai ha raggiunto la sua 8ª edizione, è nato con la provincia di Roma e poi è diventato qualcosa di grande perché ha ottenuto il contributo da parte del MIPAC, del sostegno del MIPAC e della Regione Lazio. A Tutto Schermo praticamente è un progetto dedicato alla promozione del cinema di qualità italiano, quest'anno su 30 sale in Italia, da nord a sud, e che in qualche modo ci aiuteranno a far conoscere meglio agli spettatori che cos'è il cinema italiano di qualità, quali sono, qual è il nostro patrimonio e come si esplica, insomma, in qualche modo nelle sue tante declinazioni. Ecco, partiremo appunto, come dicevi tu, a metà ottobre per poi concluderci a dicembre attraverso proiezioni, incontri, conferenze, dibattiti sul cinema italiano. Già rispetto alla scorsa edizione vedo un raddoppio delle sale. Sì, perché diciamo abbiamo ritenuto, insomma, a parte la collaborazione che c'è ormai da tempo tra gli spettatori e le sale cinematografiche italiane, abbiamo deciso di, come posso dire, in qualche modo creare una rete che si consolidasse, diventasse più forte e soprattutto che in queste 30 situazioni potessero comunicare, dare una comunicazione tra tutte le sale. Quindi noi avremo 15 sale del Lazio, 15 sale nazionali che programmeranno dei titoli selezionati dalla giuria di critici e soprattutto ci aiuteranno, e questa è la grande novità, ci aiuteranno a promuovere il premio allo spettatore. Cos'è il premio allo spettatore? Il premio allo spettatore è un premio che la rete degli spettatori insieme a queste sale offre allo spettatore o agli spettatori che avranno realizzato la migliore recensione scritta o la video recensione su uno dei film che poi troverete sul nostro sito, uno dei film su questi 18 titoli tra classici, documentari e lungometraggi che verranno programmati nelle sale. Grazie al premio le migliori recensioni gusteranno dei clip dei migliori flash italiani da Venezia a Torino, da Roma a Bari, Lecce e Pesaro, insomma, ecco. Quanti saranno i titoli programmati? I titoli saranno 18, saranno 6 film lungometraggi contemporanei, in qualche modo usciti nella stagione, 6 documentari e 6 classici. Quest'anno abbiamo deciso di aggiungere anche i classici perché dopo l'esperienza importante della Cineteca di Bologna, dopo l'esperienza della Cineteca di Roma e della Pico, insomma di alcune realtà che lavorano nella riproposizione dei classici, abbiamo deciso anche noi di, in collaborazione con loro, promuovere presso le sale cinematografiche una riprogrammazione. Ne sottolineo due che di cui siamo particolarmente fieri e sono: uno è Dillinger è morto di Ferreri e l'altro è l'omaggio a Olmi con il posto. Poi ci sarà dentro Bellocchio, ci sarà dentro Montaldo, ci sarà Italiani, insomma c'è tanto, ci sarà Alberto Lunzi, c'è tanto cinema importante, d'autore anche poi meno conosciuto, perché per esempio come Tirò il piccione, oppure, ripeto, Dillinger è morto, sono quei titoli che sono dei classici, però sono sempre passati un po' su traccia rispetto al canone del solito. Invece quest'anno noi, grazie alla nostra collaborazione, al nostro lavoro di promozione, potremmo riproporli al pubblico delle sale italiane. Come sarà la programmazione di ogni singolo film nel calendario? Nel calendario, adesso il calendario è in via di svolgimento, noi inizieremo appunto dal 25 ottobre da una piccola cittadina del Lazio, Tolfa, questo per dire che noi siamo di quelle grandi città, cioè siamo sia, posso dire, a Roma, a Milano, saremo anche a Potenza, in un altro centro importante, e saremo a Reggio Emilia, saremo a Perugia, però al tempo stesso saremo anche in piccoli centri come appunto Tolfa, come altre realtà, Marciano che è sempre in Umbria, e che sono piccole realtà che però fanno la programmazione di quali sono dei riferimenti importanti. In ogni cittadina dove andremo in questo passaggio ci saranno 3 proiezioni, in più legate a queste proiezioni ci saranno faremo degli approfondimenti, dedicheremo degli incontri, dei dibattiti, dei panel, alcuni aspetti del cinema italiano. Ad esempio a Tolfa nel mese di novembre faremo un panel dedicato al racconto che il cinema italiano fa sulla generazione Z insieme a tre film. Allora sarà Like Me Back, sarà Selfie di Leonardo Guerrageragnoli, sarà Selfie di Agostino Ferrenti e ci sarà Bangla. Quindi questi 3 titoli poi insieme alle scuole, insieme alla biblioteca del territorio, insieme al alla sala di riferimento realizzeremo questo confronto invitando critici, registi per affrontare questo tema. E poi saranno altri, ci sarà il tema della commedia, il racconto delle mafie, ci sarà il racconto della periferia e centro, insomma molti saranno i temi sui quali discuteremo. Ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Assolutamente, anche perché insieme abbiamo fatto un grande lavoro di implementazione anche dei social, che ormai sono diventati fondamentali. Allora noi abbiamo un sito internet che è www.retedespettatori.it, poi abbiamo la nostra pagina Facebook, abbiamo il nostro profilo Instagram, abbiamo il nostro profilo Twitter, sempre il nome Rete degli Spettatori, e lì potrete trovare tutti gli aggiornamenti, il calendario della presentazione e soprattutto il modo di dirette gli avvenimenti, gli accadimenti che si stanno svolgendo nelle sale, che si svolgeranno nelle sale da metà ottobre, ripeto, fino a dicembre. Ottava edizione della rassegna Tutto Schermo in 29 sale nazionali dal 15 ottobre a dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Storani di Rete degli Spettatori. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Un saluto a voi e viva il lupo. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.